che sorridi, ragazza sconosciuta, che stai seduta immobile sopra una staccionata. Un sole rosso e caldo si immerge dietro i colli e lascia solo a te gli ultimi raggi fra i capelli. Ragazza sola e povera, bella più di un sogno, figlia di contadini, figlia del tuo regno. Il tuo vestito azzurro fa come un movimento, un'onda impercettibile, un refolo di vento. Ma arriveranno, arriveranno le schiere dei mercanti e compreranno tutto, pagheranno coi contanti. Arriveranno a piedi o su cravatte colorate, con il rosso avvizzito delle loro banconote, e peseranno la tua vita e i tuoi sogni tutti interi, e ti daranno in cambio confusione e desideri, confusione e desideri. Ragazza che la sera ti addormenti presto e sola, che domattina molto, molto prima della scuola avrai da lavorare montagne di doveri, e i tuoi lavori sono così tanto necessari. Ragazza che conosci le corse sopra i prati e l'ombra dei ciliegi stesa sui baci sfiorati. Cambiano i tempi e cambiano i capi e i caporali, e quelli nuovi non fan sconti, non fanno regali. E arriveranno, arriveranno le schiere dei mercanti e compreranno tutto, pagheranno coi contanti. Ti mostreranno meraviglie, ma nasconderanno il prezzo. Non dovrai preoccuparti, ti faranno un rateizzo. Si prenderanno quella luce che hai negli occhi adesso e ti daranno in cambio la nevrosi del successo, la nevrosi del successo. Ragazza che sorridi, purezza di un germoglio, più bella della stella che aspetta il tuo risveglio. Vorrei che la tua immagine diventasse come un sole, come un dipinto sulla volta di una cattedrale, per indicare ai barbari che cosa è la bellezza. È la tua semplicità che il vento raccarezza, la tua semplicità carezzata dalla brezza, per dire col tuo volto ai trafficanti dell'orrore: è quello che vedete, un riflesso dell'amore. È questo che vedete, il riflesso dell'amore. Thank you.